Giorgia. Roberto, che cosa stai vendendo di radio? Io il secondo 140 l'ho già venduto. Ne tengo solo 430, tanto cosa ne fare. Per averne due e stare sempre non usandole. Mi faccio i soldi anche quella lì e investo in altre cose che mi servono, capito? Tu pensa che per un momento avevo pensato anche, ma quasi quasi le lascio la mia e aggiungo qualche cosa, poi ho detto, ma cazzo, devo essere sempre io il deficiente di turno. No, ma è così, cazzo, cioè la gente quando vende a prezzo pieno, quando andando a comprare, ti rendi. Oggi mi ha chiamato una persona che è anche conosciuta in radio, tirando, trattiamo, così mi trattano, non si tratta nulla io, quello è il prezzo, se la vuoi è così, se no lasciala stare, cosa devo trattare? No, non ho bisogno io di dirti quanto euro in più, 50 euro in meno, quello è il prezzo, se la vuoi è così, e se no pazienza, non ce n'è problema, già rimane lì, che cosa me ne affutti? Vabbè, scusa, se la per tre te l'ho vedati anche io l'altro giorno, che discorsi sono? Ma infatti, ti ho detto, non scendo tu, perché non sono sempre l'unico imbecille di turno. Gli altri non scendono mai. Quando compro io, ha prezzo pieno. Basta, mi sono stufato. Adesso chi le vuole le mie cose, le paga come dico io. Se le vuole. Se non le vuole, le lascia. Cosa me ne frega a me? Poi ti ripeto, tu, sono io a decidere a chi darla ad un prezzo e a chi darla ad un altro. Capito? Quella radio non si può dare di meno, perché se tu la vedi mi dici hai ragione, non si può dare di meno, anche perché io l'ho pagata a quel prezzo lo devo vendere, perché devo comprare a 3,50 e vendere a 300, ma non ci siamo, cosa siamo, al mercatino, ma non funziona vicino, io non ci voglio guadagnare niente perché non me ne frega niente, questi uno, ma MC60 c'hai, sì, e quanto lo stai vendendo? 70 euro, come? 70 euro, me lo compro nuovo, compratelo nuovo, se lo trovi a 70 euro nuovo, compramene 4 a me. Poi non le trovi mai, a parte il fatto che se ne veramente se ne trovano anche usati. Ah, cioè, ma ti immagini di volare un MC60 a 50 euro, chi costa un MB più 5 a 50 euro, ma di qua stiamo parlando ragazzi? Ma veramente roba davanti, cioè assurdo, cioè ti do il mio MC60 nuovo e tu la scatola a 50 euro, vai, hai fatto una gangata, vai. Così, io lo stesso sono sempre in maretta con questo, perché comunque sì, mi fa fare tanti lavori, per carità, però tutte le volte poi mi faccio un giro di conti, ma la Giuseppe pigliata io oggi, e rimane pure nel te ne mani idem. Tu ti ho capito, scusi Gianni, io ti ho capito perfettamente, però non si può, io l'altro 140 che ho comprato, l'ho comprato ad un prezzo basso, ok? Però non potevo darlo quel nuovo, senso di nuovo, fiammante, ancora più nuovo di questo che ho io, più nuovo, proprio il slider, tutto nuovo, esternamente, nuovissimo. Internamente non mi piaceva la modulazione, la sentivo gracchiare, l'ho mandato al centro assistenza, ma hanno fatto una revisione completa di lusso, l'ho tenuto una settimana, guarda, da favola, veramente da favola, e l'ho venduto ad un amico quanto io ho speso, e boh, non ci ho caricato manco una linea in più, anzi, ne hanno tolto, perché non gli ho fatto pagare neanche il trasporto, andare e tornare, proprio la riparazione e quanto l'ho pagato io, e basta, queste sono decisioni mie. Capito? Ma questo che è arrivato già così ed è nuovo, tra l'altro già revisionato, perché c'è, te l'ho detto, lo stemma di Bianconi già revisionato nel 2019, quindi a chi tira giù il regalo, non ha giù preso, a me non mi regalano da nessuno. Così, mi prendi già, ma dove ti richiamo? Claudio, aspetta, vai Muros. Sì, mi sembra fortunato che sta chiamando, aspettate un secondo, avanti! pianura di Florina già. Ciao Fortuna, buonasera, ben ascoltato. Quindi Claudio ti sente sicuramente. Vediamo se ti ha sentito lo più room. L'ascolto, ciao Fortunato, ben sentito. Cappa di Roggero, aspetta, vediamo se ti ha sentito anche Antonio Riserva. Anto, l'hai sentito Fortunato? Beh, guarda, Cla, lo sento un filino, so, sento che parlano, ogni tanto lo perdo, ogni tanto lo riprendo, io non faccio testo, ora. Comunque, se mi ascolta lo saluto, ma non penso. Hai sentito Antonio Riserva? Lacchi? Ma cosa metto io, glielo già che ti accompagno vita allo deposito di Gagliari, cosa metto io? No, lui c'ha un'antenna piccolina, comunque ti ha sentito, basso, ma ti ha sentito, kappa. Avanti Claudio, vediamo se l'hai sentito tu all'Acchi, ma sicuramente sì, è lì a Florinas. Aspetta un secondo. No, non ho detto a te, no, ho detto a chiunque sia, un attimino che stavano parlando. Avanti chi vuole entrare. Non so, non stai uscendo. Neanche qua sta uscendo. E neanche qui. Qua è 9:20, non è a fondo scala o clap. Qua è 9:20. Qua è più 5, più 8. E chi è? Allora, qualche paesello, non sarà Antonello Barracuda che non sta uscendo. Antone! Ieri. No, è più bassa, beh, c'è Antonio Riserva oggi all'opera e quindi non è dal monte. Sta arrivando a fondo scala muro, se a me mi arrivano 9:20. A questo punto posso pensare che sia Antonello Barracuda che non sta uscendo. Un attimo al telefono. Sì, e poi tu già la passi benissimo, come se non ci fosse. Ho capito, ecco, ma perché ci stanno ancora le portanti? C'è uno che la mette ogni sera. Ho capito Roger, sì, no, pensavo che ci fossero portanti come una volta con musica, fischi, altre cose. Ma a te quanto ti arriva, Tra? Sicuramente qualcuno che non sta uscendo. Vediamo un po', lasciamo un attimo di bianco. Avanti chi vuole entrare nel canale 10? No, allora sta mettendo a posto il microfono. Giulio, ciao, buonasera, avanti. Ciao Claudio, ciao a tutti. Non senso segnali comunque. Vabbè, vai. Prendete, vai, continuate voi, che entro fra un po'. E confermo, è sempre 9:20, quindi o che sia qualcuno che non sta uscendo. C'è di nuovo il portantista, non so cosa dire. Doppio room, a te il cambio. Ehi, ciao Giulio, ben entrato. Non so cosa dire, perché quando succedono queste cose a me poco mi va di entrare. Va bene, dai, riprendi Chiodo Arrugginito, facci sognare. Ascolio, saluto anche a te. Sì, ma sto facendo una cosa in questo momento, già dentro fra un pochino, dai, continuate voi e vi ascolto volentieri, 10 minuti, un quarto d'ora, poi ritorno in frequenza, ok? Ciao Antonio Di Selva, ciao Gianni, ciao Claudio e poi chi c'era? Claudio Di Muro, se è messo alto, mi pare di aver ascoltato, va bene, riprendo Antonio. Sì, a Roger, ciao Giulio, buonasera, ben ascoltato dopo un po', mi fa piacere ogni tanto sentirti. Ok, Antonio, dai, facciamo girare, io rimango un attimino in stand-by e rientro fra un pochino. Vai Gianni. Giulio, c'è una radio oggi, mi sembra, una Formula 1, guarda, lo stavo per dire io, tutti forti siete di radio, devo stare sempre con questo volume, pesa e cocca. Allora devo abbassare, se è troppo fastidioso abbasso, No, ma che devo stare col volume, tira su, tira, alza e abbassa, alza e abbassa. Beh, ma io posso abbassare volendo, non c'è problema, posso fare così, vediamo, così mi sentite ovviamente? No, ma tu non stai abbassando il Mickey Game, tu devi abbassare il Mickey Game appena appena. Beh, ho abbassato il microfono, non il Mickey Game. Ah, il microfono, stai usando l'MB più 5, più 4. Sì, l'MB più 4, sì, certo. Adesso l'ho messo a 4. Poco più alla 6. Allora, aspetta, 1, 2, 3, 4, poco più alla 5. Adesso è a 3, adesso è a 3, poco più alla 5. Lascialo, così. Già va bene. Ma col cable lo stai usando? Come? Gianni, cosa hai detto? Ho detto col cable lo stai usando, l'MB più 4. Sì, con Midland 440, Cavolo, già esce fuori. Ce l'ho anch'io, non l'ho mai sentito, io c'ho il più 5, il connettore Kenwood che mi aveva dato Massimiliano, gliel'aveva fatto Fabrizio, proprio senza batteria, alimentato diretto dalla radio, ma se io lo metto ti spaventi, lo devo tenere a uno, perché altrimenti impazzite di quanto è forte. Cioè, ma solo io sto usando il microfono originale. Te lo compri, lo sto vendendomi, 60 euro. Sì, ma dico, ma solo io sto usando il microfono originale. Così vuol dire che io lo sto vendendo. Chi ha il K e non vuole comprare l'MC60, io sto vendendo l'MB più 5 dentro la scatola, nuovo, fatto da Fabrizio, testato Kenwood, connettore Kenwood, alimentazione diretta a Kenwood. Proprio tu attacchi il microfono e non hai bisogno di batteria, alimentato alla radio. Io volevo quella radio là, già lo sai. No, te la posso dare. Vabbè, magari poi ci pensi. No, ma cosa devo pensare? Ci pensi la canzone? Infatti, magari poi ci pensi. Antonio, quanto ti voglio bene, cara. Oh, a proposito, ho sentito, mi ha fatto il numero, ci siamo visti a Fusaro, a Franco Delta, vi saluto a tutti, è impegnatissimo al lavoro, lavora in una bellissima società, sempre nel suo ambito, è contentissimo, sta molto bene, e niente, fatemi intanto messaggiamo su WhatsApp. Sì, l'ho visto anche io da poco, diciamo, ma l'aveva detto che stava, che si era ripreso, l'ho visto comunque che stava meglio. Sì, sta benissimo, alla grande, sempre magrolino, però è abbastanza in forma, contento, lavora, tranquillo, sereno, di radio, ho detto per il momento non mi interessa, però sono contento di averlo visto, ho fatto una bella chiacchierata, siamo ricordati un po' i bei tempi e i brutti tempi, ma comunque sono contento di averlo ritrovato, non avevo più il numero, capito, quindi mi è dispiaciuto che è stato male, ne ho parlato eccetera, mi ha regalato il numero, me l'ho messo su WhatsApp, ogni tanto ci mandiamo due messaggi. Bene, sì, anch'io l'avevo contato da Fusaro. Sì, stava comprando materiale e sta facendo come sempre, fa anche lavori per i fatti suoi, quindi stava comprando alcune cose, infatti mi ha consigliato di prendere, io ho preso gli interruttori perché per gli alimentatori a 24 volts e il case, e mi ha detto appunto cosa prendere, cosa non prendere per quanto riguarda l'amperaggio, tutte queste cose. KK, il cambio per Muros, avanti, pronto. Ehi, sì, è un courier Colorado 2. è simile a quello che avevo mandato la foto a tuo padre del, per il commutatore d'antenna, più o meno sono gemelli, dai, diciamo, qualcosa in meno, c'ha cioè qualcosa in più, non lo so, l'ho messo lì da una parte, una giovane stasera. Si è allontanato, vai Gianni, se no va Giulio. Sì, ah, faccio un po' di spazio per vedere se vuole entrare qualcuno. Va bene, adesso come mi senti che ho arrugginito di Amuro sul radio? Se c'è dove la potenza dell'apparato. Oh, ma Fortunato Lacchi che fine ha fatto? Cosa? Fortunato Lacchi che fine ha fatto? Ce lo siamo dimenticati. Secondo me sì, forse è passato qua in via l'Italia ed era lui. No, Claudio, telefono ero. Ah, telefono eri, dove sei? Autorizzazione. Cappa Roger, ti abbiamo un po' dimenticato, vabbè, intanto dovevi fare anche le gallerie. Riprendi, riprendi Fortunato, c'è anche Giulio, vai. Ciao Giulio, no Gianni volevo farle i complimenti per quella radio, già lascia quella radio, guarda, ti sentivo lì come imboccato la pianura di Florina e poi tu hai sentito a me come ricezione formidabile. Cappa gatta, grazie per il consiglio, sì, ma infatti sto usando questa qua adesso, poi anche il gas, già le faccio girare tutti un po'. Ma Rugale, se adesso sei tu lato della taglia, ascoltami, che non ce n'è per nessuno. Ciao Fortunato, buon rientro. Sì, Giulio, mi manca poco, dai, finire la settimana. Ok, ragazzi, io vi auguro un buon fine settimana, un abbraccio virtuale da parte mia e alle prossime, dai, fai girare giù. Ok, Fortunato, ricambiato, dai, grazie per essere entrato a salutarla anche stasera, è sempre un piacere. Avanti, Claudio. Ciao Fortunato, un abbraccio virtuale anche da parte mia, un atleta di mano, ci ascoltiamo alle prossime, avanti Muros. Ciao Fortunato, buon rientro a casa, dai, ci sentiamo alle prossimine, buon lavoro per domani, ciao, ci sentiamo, avanti qua. Buonasera Kawasaki, sette ruote. Sì, già, veramente spettacolare. Io preferisco più questa modulazione del Galaxy, del tuo Galaxy, della tua modulazione Galaxy. Questa è veramente fortissima, bella, chiara, va veramente molto molto bene. Allora il cambio per Tonino Kawasaki, buonasera, sono io, Chiodo Arrugginito, Antonio Reserva, che poi andrei a rilasciare il mic perché non ha ripreso, Gianni Doppio Room e Giulio Dollaro, vai. Salutone circolare, troppi nomi. Ok, buonasera a tutti. Beato che vi siete tranquilli, presso Afi. Io sono poc'anzi a Giulio, ma con una radio strana, non lo so, non mi piace. Sembra che c'ha qualcosa in bocca, ho dentro un bicchiere, sta parlando strano, molto strano. E non è il baracchino mio, perché grazie a Dio, Claudio, te ti sento perfetto, Gianni, perfetto. E solo in Giulio lo sento strano. Giulio, prova. Ok, Tony, uno, due, tre, prova, avanti, ti piace così. Ma se voi mi dite che magari io... Ma io lo so, per registrarlo faglielo sentire. Boh, a me voi lo sentite bene. Non so, è fortissimo, ma qua va bene, cosa ti devo dire, Tony, non lo so. Io guardo il registro, ti faccio sentire com'è che cavolo sta uscendo. Mai sentito così a Giulio, Sempre perfetto, oggi non lo so. O sta usando... Oh, cosa siamo, non lo so. da mettere sotto chi è avanti? Non capisco certo. Ma aspetta che c'è stato qualcuno che è venuto. Avanti l'amico che ha detto qualcosa. Anche io come lo sento così a Giulio, un po' impastato di radio, boh, non lo so, non l'ho mai sentito così strano. E allora non sono io che lo sento così. Allora adesso ho abbassato, e così va bene? Così è perfetto. Ma non poco fanno. No, ho abbassato il mic ieri, se non me lo dite io cosa, guarda, sai quanto, presente ce la mette voi, lo spessore di una cartina di sigarette, della carta della sigaretta, e così ho abbassato, con tanto. Ma questa è una radio più accettabile, chiaro chiaro, ma prima, ti giuro, non riesco neanche a capire quasi. È la stessa cosa, ma mi arriva impastata la radio, io pensavo che fosse la colonnina, perché attaccata la colonnina, gli altri li sentivo bene, probabilmente non è che è troppo alto ci aveva. Allora, quando sentite così, che ci avete sia tu Gianni, sia io Galaxy e sia Tonino, tirate sulla la NL, l'NBANL, e vedete come cambia la modulazione. Lo filtra in una maniera eccezionale, io ce l'avevo inserito, per quello non mi ricordavo, non mi sono accorto. Adesso che l'ho disinserito, mi sono accorto che la modulazione era troppo impastata. Adesso va bene, Giulio. Oh Claudio, io ce l'ho sempre inserito in NBANL. No, io lo inserisco solo Tony quando sono modulazioni molto forti, che va quasi a saturare. Allora lo tiro su e me lo smorza appena appena, capito? Io ce l'ho sempre sopra, mai messo off in giù, mai. Però sentivo strano, adesso che ha abbassato qualcosa di Mike Green, caspita. E lui, perfetto. La mia com'è la radio, come la senti? Abbassa i miei russi, mi ha fatto sordo un timpano. Il martelletto me l'ha incastrato. Basta parlare, basta parlare. Perché uno, io non lo tocco mai, difficilmente lo tocco, lo tocco solamente per registrarlo quando magari passo il pennello che magari si può spostare, eccetera. Dunque, se non me lo dite io non mi posso sentire, no? Non mi sono ascoltato stasera. Perché ti ascolti pure Giulio. Scusate, ma c'è anche Antonio Riserva. Avanti, ci sia Antonio. Boh, non c'è. Vabbè, il microfono per Chiodo Ruggito, tocca, vai Chiodo. Sentivo quasi niente perché c'era QRM, qualcosa si alzava lo speaker per la radio, ma beh, non posso pretendere, avere un portatile con una tela telescopica, metto tuo padre, quindi, ma l'importante insomma che mi sentivi, i salottoni trovati la stessa, bene meda, ok, ripeti qua, Claudio. Aspetta, stavo cambiando radio, la massa viene in varia. Inuiti 294 con l'MB più 4, cambio, passo, compro e vendo. Trulla lì, trulla là, ripeti doppio. Cosa? Ho detto trulla lì, trulla là. Non mi compro giù tu dal nido. No, questo va bene, va bene. Giulio, mi ascolti bene? Benissimo, aspetta che chiudo quest'altro. Ecco, se lo fischiava. Sì, benissimo, claro, non c'è problema. Anzi, addirittura meglio, per conto mio meglio. Mamma mia, come sto? Gianni Doppio, riprendi. Gianni Doppio. Chissà cosa sta facendo. Oh, se mi cercate sono al telefono, eh. Ehi, Gianna di Termo Riccardo. Avanti, Muros, come mi ascolti col 294? Lo so, vabbè, però il DAC Sì, un po' che non lo accendo, c'avevo questa accesa. Questa è l'Inuit, eccetera, eccetera. Adesso provo quel Coronado 2 a vedere se funziona bene, dai. Visto che ancora non l'ho provata, intanto il cambio per Gianni doppio room a girare, io intanto cambio radio, vediamo se va meglio o peggio, vai. Doppio, sarà la bassa, davanti Giulio. Ok Tony, certo, no, a me mi piace di più questa, la modulazione, addirittura meglio del Galaxy, per conto mio. Premesso che il Galaxy è bellissimo e non c'è niente da dire, per carità. Questa però sento un qualcosina di superiore rispetto al Galaxy, per cui va bene. Comunque, radio che vanno male non è a Claudio, già lo sappiamo. Poi quella voce che canta, non lo so io, boh. Proprio detto di capitare questa voce, lo puoi capitare a me, boh. Ah, Tony, cosa dici tu? Se vuoi ti do la mia voce, anche io sono Galaxy, Giulio. Anche la tua, sì, ma la tua è ancora più corposa, più forte, e infatti alle volte quando parli da troppo vicino non ti sento proprio chiaro, va bene comunque, non c'è problema, non so guigiriato. Claudio, sei rientrato? Stava cambiando, chi è che vuole entrare? Basso, esce che basso, chi è? Chi sei? Gianni, Santiago 4-5, ma cosa hai combinato? Sì, pio proprio, ma l'antenna ce l'hai almeno, messa bene. Ah, sei casa o sei macchina? Sì, troppo basso già, controlla, c'è qualcosa che non va. Cosa è successo? Mi sono perso qualcosa? Guarda Gianni, Santiago 4-5, no? Non arriva per niente qua. Allora, sto andando con questo Coronado 2, com'è la situazione? La devo sempre dire per me, bella, forte e chiara. Molto bella, sempre, molto molto bella. Kappa, ok, allora va bene, quindi questo Mickey Gain ce l'ho a 2, vediamo un po' di portarlo leggermente così. Ecco qua, Mickey Gain al massimo e il microfono che è lo stesso dell'Inuit, quindi MB+4, ce l'ho a metà, va bene? Lascia così che va bene. Perfetta, l'ha caduto come un piede, perfetta. Che tocca niente, a me quando mi dite che tutto procede bene, io non è che sto lì a cicischiare le bambole. Gianni doppio rumi, cosa è successo invece? Non capisco Tony. Ma io sentivo questo ormai da fuori, pio, boh. Con la pietra, ma chi sei? Gianni. Vediamo un po', Gianni, Santiago 4,5, non più alto, non ti ascolta neanche Claudio. E a casa sua, com'è così basso? Boh. Io non ti posso rispondere perché qua non arrivo, se vuoi ti dica. Boh. Sembra che sia l'antenna, boh, non chiami un pezzo di filo, là. Gianni, ha controllato l'antenna? Torni a Barisella! Rumi, arrivi tu in bicicletta. Ma se poco fa stavo uscendo, adesso perché non sto uscendo più? Cos'è che ha toccato? Cos'è cambiato? Boh. Cazzo, ogni volta che stacca il PL c'è un problema in questo radio. Beh. Ma tu Maria la Vodice in blu, ha una radio, la Galaxy in blu. Ui, ui, ui, avanti invece che... Torniamo, Tocrosso! Sì, dai, mi sto preparando la pizza, l'ho già messa in forno, tra le 7:30 la accendo. C'ho fame. Ma cosa ha staccato? Qualche radio? Non lo so, vabbè dai, ci fa sapere. Giulio, riprendi. Sì, stava cambiando. Si vede che ha qualche problema adesso. Io non lo sento per niente, la verità. Vabbè, non lo senti nemmeno tu, lo sente solo Tonino, per cui... Ciao Luca, avanti. Scusate che faccio un massaggiare, dai. Vabbè, dai, il cambio per Claudio, se no monopolizziamo qua tra quello e quell'altro. Avanti il muro, se riprendi e fai girare. Sì, Claudio. Sì, evidentemente è così. Stava cambiando, aveva detto che cambiava e si vede che, proprio come ha detto Claudio, tutte le volte che attacca un PL poi ha problemi a rimettere tutto in sesto. Chissà per quale motivo, avrà qualche spezzone, magari fatto male, no, e magari usa sempre quello. Se no torniamo sempre al discorso del PL, quello che non affittava e magari anche in corto, ma chi lo sa, è possibile, sai, no, non c'è da meravigliarsi oggi. Bene, bene. Antonio Riserva, rientrato, sì? Ha detto che era al telefono. Sì, lo so, infatti, ma appunto quello che chiedevo, se era rientrato, tutto lì. Va bene, dai. Ok, avanti, Tony, riprendi. Aspetta, facevo una bassa gianna a vedere cosa è successo. Quindi lasciamo stare così, dai. Va bene anche questo. Io sono anche fortunato quando compro, Giulio. Questa è una delle ultime, anzi diciamo che è l'ultima arrivata. Purtroppo senza microfono, ma sono stato io ad accettarla, intanto microfoni ne ho, quindi no, non mi interessa. Capito? E l'ho attaccato subito perché è la stessa connessione dell'altro, gli ho attaccato il microfono del pace che ha la stessa connessione e va più che bene. KK. Sì, ma quello l'hai fatto arrivare da fuori oppure da qualcuno qua in zona? No, da fuori, c'ho un amico ogni tanto mi chiama, guarda che ho recuperato questa, mandami la foto, quanto ne vuoi, c'è tanto, manda, ma piglia di Lellucci. A quel prezzo te l'hai dato? Sì, a 70 euro, più, vabbè, 10 di spedizione, 80 mi è venuto. E allora quando di cracchi dalla me? E che problema c'è? C'è un problema. Avanti, trick e track, Claudietto. Riprendo io, forse gli ha squillato il telefono Claudio di Mulos, forse Claudio di Sassari gli ha squillato il telefono. Sì, va benissimo, un'ottima radio, veramente molto molto bella, corposa, proprio di lusso, veramente alla grande. Sì, io volevo fare una piccola prova, ma eventualmente dopo, dai, vediamo se riprende Claudio. Sono tornato. E allora riprendi tu, Tony, dai, Claudio deve aver squillato il telefono. E comunque Gianni ha cambiato lo spezzone e quanto pare gli ha fatto questo effetto, neanche lo strumento li sollevava, capito? Già mi ha detto che erano difettosi questi piedi che aveva preso, che addirittura non abitava a certi imbracchi nessuno. E quindi se era stato mezzo incavolato, ha detto però mette la tela diretta. E mi ha detto no, adesso è per un'altra spezzone, vediamo un po'. Ha detto fatti sentire, facci sapere. Eh beh certo. Non lo so, ma forse ha qualche problema. Ma con quale radio era? Di nuovo con Gala si stava mettendo. Sarà quello il problema? No, perché lui stava usando il Galaxy, stava usando forte. Poi ha cambiato e quindi impattato anche. Io quando ho sentito che sarebbe 4,5 era con il Galaxy, perché ho sentito il bip finale. Ma io datemi il tempo di entrare. Adesso ci si, dai. E c'è il fischio di innesco. Io Gianni, vieni avanti, dai, con un fischietto, sì. E poi ci racconti cosa hai combinato, dai. O cosa ti succede ogni volta. Ogni volta che fai il cambio c'è sempre qualche problema. Va bene, dai, purtroppo succede. Avanti, Mulos. È entrato, Sta ancora zuffando, avanti, Claudio. KK, perdonatemi che mi ha scurato il telefono, ho fatto in tempo, se no, altrimenti la va sovramodulare e non si capiva niente, dai. Sappiate, quando non vi rispondo o mi chiama mia moglie o sono al telefono, ma rientro subito, non vado via senza avvisarvi. Molto bene, quindi cosa è successo a Gianni? Ha staccato il PL e le rimate in mano, non ho capito. Gianni, con tutte quelle belle radio che hai ti ho detto comprati un bel commutatore in modo che non tocchi più niente. Ok, come faccio io? Vai, io in un attimo ti faccio vedere, cambio commuto, faccio, cambio radio in un secondo e tutto è sempre sotto controllo. Vedo Mato Giù. No, lui ha cambiato soltanto lo spezzone a quanto pare, e le pile che ha comprato in settimana vecchia a quanto pare non abitava Ocla. È un casino, è boh, non lo so, guarda, non so cosa dirle perché me ne abbiamo già parlato nel pomeriggio con Gianni questa storia. Io non riesco a capire se, ma come può essere Giulio? Allora, la domanda che mi ha fatto Gianni è questa. Dice, mi hanno detto che le ultime radio che stanno facendo hanno il connettore del PL diverso dagli altri. Ma secondo te può succedere che un 259 delle ultime radio che stanno facendo non abbia lo stesso passo dei PL che sono in vendita da 100 anni? Appunto, è quello che stavamo discutendo anche ieri, mi sembra. In effetti è proprio una stupidaggine quello che hanno fatto. Se loro hanno fatto la apparecchiatura differente, è chiaro che non possono andare bene, perché il 259 e il 259 PL deve essere sempre accoppiato col 239, dunque che sarebbe il PL che si è attaccato alla radio, e lì deve abitare bene senza nessun problema. Se poi loro hanno fatto un nuovo tipo di apparecchiatura, è chiaro che non combina più, non è più possibile abitare. Ma cosa deve fare uno? Caspita, non lo so io, uno per comprare un PL deve modificare anche il PL della radio? Non proprio, è da stupidi fare certe cose, no? Ma cosa vuoi che ti dia? Vediamo se rientra Gianni. No, non rientra. Avanti Claudio Muros. Sì, li sento, nuovamente il telefono, dai, un secondo, riprendi Giulio. Ok, sì, certo, no, qui a Sassari non arrivano le serie, qui da me perlomeno non arrivano, Claudio Di Muros, non arrivano assolutamente, è difficilissimo, a meno che non abbiano proprio un bel legnale, allora qualcosina potrei anche ascoltare, va bene che io sono penalizzato nella posizione dove mi trovo, non certamente come quelli che abitano proprio in centro a Sassari. Va bene, dai, avanti Tony, dai. Riferimento al PL 259, giustamente, è uno stampo e quindi deve essere standard, una cosa normalissima, che li hanno sempre fatti perfetti. A meno che, punto interrogativo, c'è un'altra nuova ditta che avrà qualcosa di novità, diciamo, e la filettatura sarà leggermente diversa da quello dello stampo originale dell'altra ditta che li ha sempre fatti. Solo questa spiegazione si può dare. Sono tornato. Avanti allora. Sì, la spiegazione che si può dare è che non bisogna comprare le PL, gli fate dei chifu. Li ho presi anch'io un paio, una vita. Appunto, Antonio, è quello che stavamo parlando anche ieri. Abbiamo fatto un piccolo questione riguardo di questo particolare. Ma è mai possibile, ragazzi, che facciano il PL che poi non ha vita sulla radio? Ma è una cosa assurda, guarda, veramente. Da che mondo è mondo non si è mai cambiato il PL, perché non, per quale motivo uno deve cambiare il PL della radio adesso solo perché magari deve comprare un PL nuovo? Non è possibile, guarda. Il 259 deve essere compatibile col 239 che c'è attaccato alla radio. Avanti Antu. Lo so, giù, lo so, io li ho comprati, li ho salvati sul cavo, ero sul tetto, sono andato a vitale sulle antenne, ho dovuto usare il pappagallo. Ma ti rendi conto? Cioè, ma io, dai. È pazzesco, evidentemente hanno sbagliato di qualche decimo il passo. Magari la filettatura può essere sempre quella, però hanno sbagliato il passo da filetto a filetto, probabilmente quello. Perché se a vita forza solo quello può essere, che hanno sbagliato la distanza fra filetto e filetto. Avanti Tonino. Ciao, comunque Antonio, mi ascolti bene? Sì, ciao Tony, sì, benissimo. Ok, vediamo se Gianni ha ripreso. Gianni, quello si sta giocando con il PL spezzone, è un bel cazzato, mi sta vivendo tutto. L'automista era appena diretta, lui niente, spezzone qua, per scommette, ha detto anche Claudio, giustamente, metti cosa di antenna, come ti togli, praticamente cambi soltanto con la monopolina da 1, 2, 3, 4 baracchini in 4 uscite, capito? L'antenna unica che entra lì, cosa stai lì a cambiare spezzone, cambiare baracchino, vedi che lascio. al fine di evitare svitare e succede il patatrac come è successo a lui. Non stavo uscendo, Santiago 4,5 m, cosa da pazzi proprio. Va bene, ok. Chiudo lo ginito, riprendi. Ok Claudio, guarda, allora se tu hai intenzione di comprarti un nuovo microfono, tenta se riesci a trovare un M300, quello è straordinario, va benissimo, c'è anche l'eco, ma l'eco non è così importante per noi, però la modulazione è perfetta, oppure l'M+2 del vecchio stampo, che praticamente è il panel manuale, in poche parole, anziché come il panel più 3, solo che il manuale si chiama M+2, poi tuo padre già le sa queste cose, chiedi a lui e già ti consiglia bene, già è esperto, non c'è problema. Capito, o Claudio? Vediamo un po' se è rientrato Claudio di Sassari, se no lo prendi tu dopo anche tu. Al telefono. Bene, Claudio di Muros, ti volevo chiedere una cosa. Ascolta, siccome so che voi collezionate radio vintage, non è che per caso ne avete una per i cambi, una Realistic Navajo? Sì, bene, bene, no, ne stiamo cercando uno per pezzi, perché ne devo riparare uno che ho un po' appoggiato, perché mi sentivano di ricambio, ho detto, ma magari loro ne hanno qualcuno che lo vogliono dare per pezzi, niente, non se ne trovano più, va bene, lo mettiamo da parte. Purtroppo è quello il problema, alle volte uno va a cercare il ricambio e non si trovano, vabbè, comunque, d'altronde cosa ci vogliamo fare, non possiamo nemmeno pretendere, radio vintage così di tanti anni, trovare il suo ricambio magari originale è anche molto difficile, lo sappiamo benissimo. Avanti Tonino. Ti ringrazio il microfono perché dovevo spostarmi dal baracchino che dovevo aperto la mia cenetta. Ok, vabbè, salutoni a Spagliero, salutoni a Claudio che è d'Urginito, salutoni a quella familiare. Ciao Antonio, ciao Giulio e ciao Gianni, io ho provato a chiamarlo ma cade la linea, forse non prende dove è lui, dopo semmai lo richiamo, adesso cosa ha combinato. Ok, non proseguo, ci sentiamo alle prossime, semmai più tardi accenderò, se c'è qualcuno. Riprendi Antonio Liserva, ciao a tutti. Antonio lo riprende, allora riprendo io, ciao Tony, grazie per la chiacchierata, ci sentiamo prossimamente, dai, appena è possibile. Ok, vediamo se è rientrato Gianni, così, perché sono curioso di sentirlo a Gianni stasera, ma è sparito definitivamente per stasera. Gianni, ci sei? No. Antonio, sei ritornato? Antonio nemmeno, Claudio al telefono, dunque è già rientrato. Rimango... No, c'è Claudio di Muros, avanti Muros. Ciao. Ciao di nuovo Tony, ciao alle prossime, dai. Sì, beh, c'è Reserva al telefono e anche Claudio al telefono, già rientreranno, poi vediamo un po' che fine ha fatto Gianni, se riprende di nuovo, non so se ha risolto il problema. Sì, appunto Claudio, ti stavo dicendo, se avete quei due microfoni, fateli attaccare uno di quelli che dà tuo padre, che vedrai che funziona una meraviglia, perché sono tra i migliori in assoluto, dei palmari, io parlo dei palmari, sono tra i migliori in assoluto, praticamente l'M più 2 non è altro che il TAN più 3 da tavolo mia, né più né meno, non cambia un granché come modulazione, anzi non cambia proprio niente. Per cui solo che uno è manuale e l'altro è da tavolo ed è diverso. Poi per quanto riguarda l'M300, dentro ci sono due trimerini, tuo padre già lo sa, uno è per l'eco e uno è per la modulazione, per cui va benissimo così. L'eco lo puoi anche tenere basso, se non ti interessa, e la modulazione lo metti al massimo e vedrai che funziona alla grande, perché hanno una buona timbrica tutti e due, sia l'uno che l'altro. Vai Claudio. Arrivato sono. Intanto è rientrato Claudio di Sassari. Sì, beh certo, tu dovresti fare così, visto e considerato che ce l'avete quei microfoni vintage di allora, ti posso garantire che quelli sono eccezionali, se funzionano bene come erano una volta non c'è problema, fatene installare uno di quelli a ogni radio e vedrai che avrai alla grande, veramente, perché sono dei microfoni straordinari, veramente. Avanti Claudio di Sassari. Scusate, perdonate, un po' di telefonate per organizzarmi domani mattina, che ho un paio di querelle da fare. Molto bene. Chi è rimasto, Giulio? Aggiornami, siamo su sempre tutti? No, è andato via, Tonino è andato via, aveva da fare, Antonio non ha ripreso, Gianni nemmeno, Gianni non lo so cosa è successo, non l'ha più ripreso da quel momento che appunto stava cambiando la radio. Poi beh, facciamo una chiamata a Antonio, vediamo se riprende. Antonio? No, non c'è, vai Ivcla. Cappa, va bene, dai. Ok, quindi siamo rimasti solo noi. Niente, no, ero al telefono con la con mio cognato un attimo a fare un QRL veloce. Va bene, avanti Claudio Di Muro, se lo dai, riprendi. Giulio sicuramente un minuto l'hanno impegnato, già ritorna subito. Sì, ma infatti sono contentissimo anch'io. Forse l'intervento di ieri di una persona è servito a qualcosa, o molto probabilmente qualcuno si è messo la mano sulla coscienza, perché è assurdo poter continuare a chiacchierare in quella situazione lì. Io sarei il primo a spegnere e andare via, perché veramente è assurdo. KK, vediamo un po' se ha ripreso Giulio. Scusa Claudio, sono al telefono. Sì, QSL, l'ho immaginato, capito Claudio? Quindi andiamo avanti così, perché non c'è niente per scontato. Riprendi. QSL, mai fatti, io come vedi stasera mi sono dedicato un po' a far girare anche qualche altra radio, perché oramai da quando c'è il Saturn Echo sono sempre con quello, ho anche il 140 acceso perché il 430 è partito stamattina al centro assistenza per darle una pulitina, una revisionata, 10 anni che non lo tocco, quindi lo voglio avere a posto e così conclude bene la vecchiaia, perciò ho acceso anche quella in stand by. Dopo facciamo un paio di passaggi anche col 140. Giulio, a te il cambio, riprendi. Ok, qua. Sì, beh certo, non c'è problema. Sì, ma sono d'accordo anch'io a riguardo di quello che abbiamo parlato anche stamattina, no, non c'è problema. Lasciamo perdere, tanto gli dà ragione. Oggi c'è stato qualche tentativo, il segnale era sempre quello, però non possiamo dire niente, accusare non abbiamo accusato nessuno, per carità, ci mancherebbe altro, non siamo a quel punto di accusare qualcuno, però insomma, quando un segnale arriva da una certa direzione, bene o male, più o meno possiamo anche capire. Qui c'è qualcuno che con qualche strumento ci ha confermato di più cose importanti, e io però sono sempre dell'idea che a me non mi fa né caldo né freddo, sicché non me ne frega proprio per niente. Facciano quello che vogliono, per me va sempre bene, non me la prendo io per il baracchino assolutamente. Va bene, dai, avanti Claudio Di Mulos. Sì, vabbè, ma il discorso è chiuso, dai. L'intervento di ieri evidentemente gli ha un po' lucidato il cervello e quindi va bene così. Oppure, ripeto, si è messo la mano sulla coscienza, chiunque sia, maschio, femmina, piccolo, grande, è chiaro che non si poteva andare avanti. Io ero già propenso, ne avevo già parlato con qualcuno proprio oggi al telefono, ero già propenso a staccare tutto, basta, finite le comunicazioni, perché non si può stare ogni sera a ribadire sempre le stesse cose. O si chiacchiera, ci si diverte, ci si confronta, si può fare tante cose, però quando sono le portanti, i disturbatori, queste cose a me non mi interessa più, quindi va bene così. Io spero e credo, soprattutto perché ci credo tantissimo, che abbia capito che certe cose non si fanno e che quindi la radio è fatta per parlare, non per disturbare. A te Giulio. Appunto, siamo tutte persone adulte, non, non è il caso di andare lì a sindacare niente, perché però ognuno di lui ha il suo modo di pensare, può pensare quello che vuole, non è quello, non è assolutamente proibito. Interessante non incolpare mai nessuno se non si è sicuri, e va bene così, ci mancherebbe altro, no, assolutamente, anche perché non è detto, perché se una determinata persona abita in un certo posto che sia assolutamente lui, no, per carità, ci sono 1000 persone o 2000 o 5000 persone in zona che potrebbero essere, che ne so, c'è qualcuno magari che se l'ha preso, si è messo ad ascoltare, non si è mai fatto sentire e fa i dispetti a noi che magari abbiamo voglia di fare quattro chiacchiere. Tutto è possibile nella vita, per cui non incolpiamo nessuno e non ce la prendiamo contro nessuno, ci mancherebbe, anzi sono tutti accetti, ben accetti, se dovessero entrare in frequenza, che ci fa piacere, intanto perché incrementiamo il numero delle persone e poi perché è bello sentire anche persone, sia anziani che giovani o di qualsiasi età, non c'è problema, io sono del parere così. Va bene, dai, avanti Mudos. Non avevo seguito tutto il discorso di Fabrizio, perché non appena che è entrato, dopo qualche secondo purtroppo se n'è andata la corrente elettrica da qui, e poi allora sono sceso giù a cercare la lampada di cortesia, quella per avere la luce qui, e allora non, poi ho fatto ma non ci salgo più adesso ormai, intanto è già tardi e non ho seguito niente. Però sono sempre cose antipatiche quando uno viene lì e ti mette la portante, ma che motivo c'è? Cosa hai da guadagnare? Ma che dispetto ci stai facendo? È un dispetto stupido, un dispetto da certosino, non è che ci guadagni qualcosa o mi dai fastidio. Ti posso dire che mi dai fastidio, ma poi in realtà in fin dei conti non è che il baracchino me l'ha da mangiare. Parlo con chi posso parlare, se riesco a passare e se qualcuno riesco a sentire va bene, se no pazienza, non è la fine del mondo. Sono cose stupide, stupidate sono, che la gente fa di intanto in tanto, non ho mai capito il motivo per cui fare queste cose. Io sono abituato a vivere in maniera civile, di conseguenza non mi interessano certe cose e soprattutto non me la prendo più di tanto, nel modo più assoluto. Avanti Mudos.